everybody, you stupid loser, Danny Cruiser, and who's with you, sir? El señor Tavares is proud to keep you warm. Bienvenidos a todos los vatos. Bring on your niggas, you won't believe what you're gonna hear. Baby, can show me that you can. Baby, can show me that you can. Baby, show me that you can. Baby, can show me that you can. Bring on your niggas, you won't believe what you're gonna hear. '21:09, benvenuti all'89esima puntata di Radio Bam. Siete sintonizzati sul 99.6 di Radio Onda d'Urto e come ogni martedì sera vi terremo compagnia con il meglio e il peggio del rock and roll underground. Io sono Franz, stasera in solitaria perché i miei co-conduttori sono rimasti a casa sotto le coperte visto che è iniziato a fare un po' freddo e quindi noi non ci perdiamo in chiacchiere e passiamo subito con qualcosa, ad ascoltare qualcosa che ci scaldi un po' visto che l'autunno è arrivato. Ma noi non ci perdiamo assolutamente nella tristezza. Oh Mary Lou. Oh, yes, sir. say goodbye to your generation. Shells are punk rocker. She'll party at the show so she gets sick. When she's at the show, there's no one she won't blow. But she kicks ass when she gets in the pit. Keep it up, keep it real, keep it punk. Life's a lot more simple if you're drunk. You're all about the noise and picking on the boys, and there ain't nothing ever stopping you. .6 di Radio Onda d'Urto, questa è Radio Bam e questi erano i Ricco Bellis con Only You, prodotto locale, loro sono bresciani, hanno appena pubblicato il loro primo album dopo aver dato le stampe ed essersi autoprodotti un primo bel 7 pollici, che scommetto ha fatto la felicità di tutti i fan del Ramonescore o del punk rock vecchio stile che dir si voglia. Ricco Bellis, sono qua di Brescia, suoneranno settimana prossima martedì insieme ai Chicks Digit al Lio Bar. Il CD tra l'altro è uscito in Giappone, ci si chiede perché certi gruppi devono pubblicare i dischi fuori quando insomma ci sono anche etichette italiane, ma questo è quanto. Prima di Ricco Bellis abbiamo sentito un'anteprima del nuovo disco dei Queers che si intitola Back to the Basement, il pezzo si chiama quasi stupidamente, tra l'altro, Keep It Punk, è un loro pezzo bubblegum pop abbastanza carino, dal testo abbastanza, insomma, classico. Prima di loro i Mangies con Say Goodbye to Your Generation, un'altra anteprima. Questo pezzo è appena stato pubblicato nella compilation per le 50 uscite della Stardump Records, è presentato settimana scorsa in quel di Rotterdam, appunto al Rotterdam Rumble. I Mangies, tra l'altro, erano uno dei gruppi... i Pewies erano uno dei gruppi principali, mentre i Mangies avevano suonato la settimana ancora prima, invece al Monster Zero Mash, inizio a confondermi. Comunque i Mangies con Say Goodbye to Your Generation è un pezzo... è una cover dei Methadones, il gruppo di Danny Vapid, che tra l'altro si è sciolta recentemente. E tra l'altro leggevo proprio oggi che i Methadones daranno le stampe un nuovo CD con una raccolta di vari split e gli ultimi pezzi che avevano registrati. Questo, se non sbaglio, il pezzo Say Goodbye to Your Generation era stato pubblicato proprio su Stardump Records in un bel CD, che adesso non mi ricordo il titolo, ma insomma questo era il pezzo classico e bello del disco. Potete trovare questo pezzo e un altro inedito dei Mangies sulla compilation della Stardump Records, che si chiama semplicemente 50, come il numero delle sue uscite. Nel primo disco, tra l'altro, ha tutti i gruppi Stardump Records che coverizzano altri gruppi Stardump Records, come in questo caso i Mangies che coverizzano i Methadones, invece ci sono i Sonic Dons che coverizzano i Mangies e quant'altro. Invece il secondo disco ha solo inediti delle stesse band. Insomma, noi abbiamo avuto il promo della Stardump e ve lo passeremo nelle prossime settimane. Invece abbiamo iniziato questa puntata con i Beatnik Termites, con Mary Lou, un loro pezzo classico, uno dei classici del bubblegum punk degli anni 90, giusto per tirarci sul del morale. Sono da solo qui in studio, dopo un sacco di periodo in cui il studio era strapieno di gente, birre che volavano, feste, ospiti, e niente, stasera me la prendo con calma, ci godiamo il caldino dello studio e la tranquillità e andiamo a sentirci ancora un po' di bella musica. Abbiamo parlato della compilation delle 50 uscite della Stardump Records, e allora andiamo a sentirci un altro pezzo, ovvero quello dei Pee-wees che converizzano i Remains con Don't Look Back. Some strange ideas on how life should be lived and things to be done. Now I'm here to say you gotta do just what you want. And when they start all that talk, talk, talking, remember just one thing. Truth is a lie. Light is the way. Williams guitar. Miss Williams guitar. So smoking a cigarette, and her face looked sad, and she was crying a whole bunch of tears. And I said, I don't wanna be the kind of guy that you take for the night. No, no, no. And I saw this girl riding on the subway train. Got there, she didn't know how to move her feet. She just sat in her seat. But I said, I don't wanna be the kind of guy that you take home at night. No, no, no. Yeah, I wanna be the kind of guy that makes you feel so good inside. Yeah, I wanna be the kind of guy that makes you feel so beautiful inside. Girl at the bar late last night. She had long red hair and she was drinking a glass of wine. And I asked her her name and she looked right into my eyes. And she poured that wine in my head like I was some kind of crazy fool. And I said, I don't wanna be the kind of guy that you take home at night. No, no, no. Yeah, I wanna be the kind of guy that makes you feel so good inside. Yeah, I wanna be the kind of guy that makes you feel so beautiful inside. .6 è la vostra radio, Radio Onda d'Urto, questa è Radio BAM, come ogni martedì sera dalle 9 alle 10 a tenervi compagnia con il meglio e il peggio del rock and roll underground. Abbiamo sentito in ordine i Pee-wees con Don't Look Back, cover degli Immensi Remains e cover che trovate solamente sulla compilation celebrativa delle 50 uscite della Stardump Records di Rotterdam. È un doppio LP con CD, non l'ho ancora avuto in mano perché questo è un promo, ma la grafica sembra molto molto molto ben fatta di Pee-wees. Mentre prima abbiamo sentito sempre dalla stessa compilation i Mangies, di cui vi sono debitore per le loro prossime date, che saranno il 5 novembre al Palazzo del Granaio di Settimo Milanese in provincia di Milano insieme ai Chicks Digit, e il 6 sempre di novembre, il giorno dopo, al Medley Pub di Castelnuovo Valtidone in provincia di Piacenza. Mentre sempre a novembre suoneranno il 27 al United Club di Torino e il 22 gennaio all'Amigdala Theater di Trezzo d'Adda a Milano. Mangies, che tra l'altro sono in giro a promuovere il loro nuovo album che si chiama Bad Juju. Tra l'altro sono riuscito a recuperare proprio questo fine settimana l'intervista che avevo fatto a Manuel De Mangies nella puntata 86, che era andata misteriosamente persa negli archivi di Radio Onda d'Urto. Siamo riusciti a recuperarla, li potete trovare, ascoltare in streaming o scaricare sul sito di BAM, www.bam-magazine.it, dove potete trovare anche tutto l'archivio delle vecchie trasmissioni. Basta che cliccate su Radio Show. E come sempre vi ricordo che potete abbonarvi gratuitamente ai podcast di questa trasmissione andando sull'iTunes Store, sull'Apple Store, digitando Radio BAM, la trovate, cliccate e ogni volta cliccate su iscrivimi. E ogni settimana riceverete tanta buona musica gratuita, tanto buon rock and roll, tanto buon punk rock e quant'altro. Tra l'altro la trasmissione, ve lo ricordiamo, ormai ve lo ricorderemo sempre quest'anno, è stata votata tra i 10 podcast migliori dell'estate da Wired, e mica cazzi. Dopo i Pee-wees abbiamo sentito i Jayhawks con Miss Williams Guitar, ci siamo puliti un po' le orecchie dopo tutta questa scorpacciata di punk rock, che dire, pezzo fantastico. Dopo di loro i 2-Bit Desperados con Pretty Girl, edito sul loro primo 7 pollici. Loro sono un gruppo a metà, se non sbaglio, sardo, un po' sardo, ci suonano due o uno e mezzo dei Love Bot, tra l'altro li salutiamo, ciao Claudio e ciao Nicola. Ci suona anche un ragazzo, se non sbaglio, portoghese e una ragazza francese, ma potrei veramente sbagliarmi. 2-Bit Desperados suonano a metà tra garage, punk, folk e musica portoghese, probabilmente molto molto bravi. Hanno appena tra l'altro fatto uscire un LP sulla Jet Kune Records di Roma, non abbiamo ancora avuto modo di sentirlo, ma appena l'avremo ve lo passeremo. Loro saranno in tour tra l'altro a inizio novembre, vi terremo aggiornati con tutte le date sicuramente. Mi sembra che suonino anche a Bologna, se qualcuno qua vuole farsi la trasferta e andarli a vedere. Dopo i 2-Bit Desperados abbiamo sentito invece King Tuff con Kind of Guy, tratto dal suo primo, perché si tratta fondamentalmente di una sola persona, il suo primo album, e su cassetta dalla Burger Records. Non credo sia uscito anche in LP, non lo so, andrò a documentarmi. Kind of Guy, molto molto bello l'album d'esordio di King Tuff. L'ultima settimana di ottobre, sempre ricca di concerti, ci saranno diversi tour questo fine settimana e anche un fine settimana che vedrà Halloween questa domenica, quindi molti gruppi in giro. Ad esempio ci sarà l'inizio del tour di Kurt Baker e i Radio Days, che faranno 4 date in Italia proprio questo fine settimana, e dopo vi parleremo, a fine trasmissione vi parleremo proprio di questo. Poi ci saranno in tour i Pop Gun, che iniziano il loro tour, il loro primo tour italiano domani. Chi sono i Pop Gun? Sono un gruppo nato da una costola degli Yam Yams, i nostri amati Yam Yams della Norvegia. Volevo avere qualcosa da passarvi dei Pop Gun, ovvero il loro primo album, ma non ce l'ho ancora, doveva arrivarmi in tempo per questa trasmissione, invece no, molto male. Comunque saranno domani al Batik di Milano insieme a altri 5 gruppi, se non mi sbaglio, Colin Farrell, un gruppo tributo ai Turbo Negro e mille altri gruppi. Domani al Batik di Milano i Pop Gun. Invece giovedì suoneranno al TT Twister di Villa d'Ossola in provincia di Verbania, venerdì al Town di Fidenza insieme ai Cunninghams, sabato alla Scaletta Rock Club di La Spezia e domenica qua a Brescia, o meglio a Ospitaletta, alla Terrazza Live, per la serata di Halloween della Terrazza Live. Quindi vi consiglio di andarveli a vedere lì, loro sono ottimi, fanno una specie di power pop punk molto anni 90, molto molto bravi tecnicamente, belle melodie, bravi ragazzi, anche bei ragazzi credo, non lo so, bisognerebbe chiedere parere femminile. I Pop Gun suoneranno, quindi ve lo ripeto, domenica a Ospitaletto per la serata di Halloween della Terrazza Live. Ora passiamo invece a un demo che ci è arrivato, ebbene sì, perché ci arrivano anche demo e siamo molto felici di passarlo, soprattutto quando sono buoni. Il nome del gruppo è buono, si chiama Treehouse Society, la società della casa dell'albero. Ci suonano, se non mi sbaglio, degli ex High School Lockers. Suonano un pop garage abbastanza divertente, adesso ce ne andiamo a sentire insieme. Questo è il primo pezzo che hanno registrato, ce l'hanno mandato e siamo felicissimi di passarlo qui sul 99.6 di Radio Onda d'Urto. With her, you would love. 99.6 Radio Indaturto è la vostra radio, ancora 10 minuti di Radio BAM, che vi tiene compagnia come ogni martedì sera, col meglio e il peggio del rock and roll underground. Abbiamo sentito i Treehouse Society con Molly, e poi Kurt Baker con Cruel to be Kind, e Kurt Baker sarà in tour in Italia proprio questa settimana, suo primo tour italiano da solista dopo essere passato un paio d'anni fa col suo gruppo, i Leftovers. Questo è tratto dal suo primo EP, che è un EP di 5 pezzi cover di power pop classico, appunto come Cruel to be Kind. Dopo di lui abbiamo sentito invece i Radio Days con So Far So Close, e proprio con i Radio Days parliamo adesso, ovvero con Dario, una vecchia conoscenza di Radio BAM. Mi senti, Dario? Sì, ciao Franz. Ciao, tutto come bene? Va? Dai, sì, non c'è male, non c'è male. Allora, siamo Dario, ultime prove. Ultime prove prima del tour, perché proprio voi con Kurt Baker, i gruppi che abbiamo appena sentito, partiranno per il tour europeo questo giovedì, partendo proprio da Milano. E da Milano a Barrios. Allora, andiamo con ordine. Prima di tutto abbiamo sentito So Far So Close, tratto dal vostro nuovo album, che si intitola C'est la vie. Si intitola C'est la vie. È uscito... Quando esce? Esatto. Quando esce? Praticamente esce il 15 novembre ufficialmente. Ok, ma... dovremmo averlo alle date, dovremmo dal 28 a Milano in poi, in anteprima. Quindi scoop, non è ancora sicuro che voi l'abbiate? Non è detto. In teoria sì. Comunque diciamo che giovedì c'è release party a Milano, giusto? Al Barrios Café, sì. Insieme proprio, sì, a Kurt Baker. A Milano, noi con Kurt Baker dopo e i Lucky Lads. Perfetto. E tra l'altro spiegaci un po' come funzionerà questo tour, perché sarete, prima suonerete voi e poi voi farete da backing band a... Esatto, sì, sarà uno sbattimento incredibile, perché suoneremo tipo un'ora e mezza ogni sera facendo il nostro concerto prima, e poi dopo suoneremo con Kurt cover anni 70, power pop, pezzi dei Leftovers, cover così assortite generali. Perfetto. E però sarà un gran concerto. Un gran concerto giovedì al Barrios Caffè di Milano, mentre venerdì venerdì andiamo a Domodossola da Giulio. Si dice Barrios, non Barrios, non lo so. Non ho idea. Barrios, forse. Barrios, chi lo so. Sì. Più bello Barrios. Comunque però. Lì. Esatto. Venerdì. Zona Barona, mi dicono. Zona Barona. Ok. Venerdì, invece, dicevamo, a Domodossola. Andiamo, esatto, all'Oste. Back in Ossola. Vediamo l'ora. Tra l'altro l'unico concerto che verrà fatto all'Oste di Domodossola, che purtroppo ha avuto dei problemi col vicinato. Mannaggia il vicinato. Esatto. Mandiamo gravi problemi, sì. Mandiamo tutto il nostro sostegno all'Oste, come anche al TT Twister, che ha dovuto affrontare problemi molto simili. Sabato invece suonerete al Town di Fidenza. Town con Miss Jane Broken Heels. Esatto, e con tra l'altro anche mostra di opere di Riccardo Bucchioni di La Spezia. Ah, esatto, sì. Si è arrabbiato su Facebook perché ho messo che non partecipavo, non me ne ero accorto. E ti ha accusato anche. Anche me. Sì, ha accusato anche te di aver messo non partecipo. No, no, io ho messo che partecipavo, io c'ero. Io rispondo a tutti allora sì, così sono tutti contenti. Va bene, e poi domenica a Meldola. Ok, provincia di Cesena. Provincia di Forlì Cesena. Esatto. Con tantissimi altri gruppi. Esatto. Tra cui Cani Pazzi, Teenage Bubblegums e altri che non ricordo. Va bene, grande festone insomma. Ti vestirai ad Halloween. Gran festa di Halloween. E poi partiamo, siamo finalmente dall'Italia, ci leviamo dalle palle per un po'. Quando state via? 2 settimane, giusto? No, siamo via 2 settimane, okay. Andiamo in Svizzera, in Francia, soprattutto in Spagna, che non si vede l'ora di tornarci. Poi torniamo in Germania, Danimarca, Belgio e basta, poi perché non abbiamo più tempo. Ok, allora però mi sembra www.radiodays.it è il vostro nuovo sito. Sì, dove si può ascoltare. Fatto da Asso, tra l'altro. Nuovo sito fatto da Asso, quindi chi volesse dei siti così belli deve contattare Omar Assadi. Me l'ho dimenticato che Asso effettivamente faceva i siti. Back in the days. Infatti, ma adesso ho imparato molto meglio. No, beh, molto bello meglio. Tra l'altro. Bene, bene. E si può sentire tra l'altro 2 pezzi del nuovo album. Sì, sul sito ci sono in streaming 2 pezzi del nuovo album. Perfetto. Quindi voi state provando con Kurt Baker adesso? Sì. Ce lo fai salutare? Certo. Fagli certo, dire qualcosa fatto. Senza che gli dica niente. Un saluto. Ciao, ciao. I don't know how to speak Italian, I'm sorry. No problem. Okay. See you on Thursday in Milan and Friday and Saturday and Sunday. Yes. Great. I'm excited. Good. We too. We just passed your song. And what do you want to say to the Italian people listening to rock and roll and power pop and stuff? First off, I'd love to say to the Italian people of Italy that you guys have a great country, and the women are beautiful, and we're going to have a great time. We're going to have a good time. Great. And if you come to the shows, I will personally give you a big kiss. Great. And buy you a beer. And stuff like that. It's going to be really fun. I hope everyone comes out to the shows. Great. Thank you so much. It's going to be like a birthday party, like every night. There's going to be cake. Every night like a Saturday night. Balloons. Strippers too, yeah. Big titted women jumping up and down behind our drum set. And also, there'll be... I can't say that. The radio days want me to say bad things. I don't know if you guys... Don't listen to them. In America, don't we have this like organization that bans radio stations if you say like bad words. No, we can say whatever we want, except... You can say whatever you want. But fucking great. Motherfucking shit. Shit, poop, take pussy, all that good shit. I'm a vulgar dude, but I love rock and roll. Good. And I like rocking with the radio days, so it'll be a great time, I think. Good. Thank you so much, Kurt. You got it, Franz. Bye. Bye. E questo era Kurt Baker. Dario, sei ancora lì? Sì, ora ci sono. Perfetto. Questo era Kurt Baker, che mi sembrava abbastanza emozionato, soprattutto delle donne italiane. Sì, esatto. Sì. È innamorato, si innamora ogni ora di una donna diversa. Ci vediamo questo fine settimana. www.radiodays.it, sito fatto da Asso. Andatelo a vedere. E se vi serve un sito fatto, chiamate lui. E niente, buon tour. Grazie mille. Grazie mille, ci si vede presto. Ciao, a presto. Ciao. E il nostro tempo a disposizione è quasi finito. Dopo di noi andrà in onda Desert Caravan. Che fa cagare! No, non fa cagare, è molto bella. E con il meglio del desert rock, del... non lo so neanche io. Eccolo che arriva! Oh, finalmente ospite. Il corretto finto in falsetto è veramente triste. Guarda, dove sono i tuoi ospiti? Sono stato abbandonato da tutti. Giusto. Non mi vuole più nessuno. Un po' come il Piacenza, insomma. Ma no, anche voi non ve la passate molto bene. Vabbè, comunque, ultimo pezzo subito dopo Desert Caravan. Loro saranno qua in Italia, andiamo proprio nel base stream adesso, cioè proprio ci strappiamo le mutande. Loro sono i Coral, sono inglesi, sono l'unico gruppo mainstream probabilmente un po' decente che è stato pubblicato ultimamente. Saranno a Milano lunedì prossimo al Tunnel. Questo è tratto dal loro ultimo album, che è molto influenzato dalla psichedelia anni 60 della West Coast, si intitola Green is the Color. Noi vi diamo appuntamento settimana prossima sempre qui su 99.6 di Radio Onda d'Urto. Ci saranno gli ospiti di Chicks Diggit, di Ricco Belli, se ci sarà tanto divertimento, e continueremo a odiare Radio Bam e il Brescia Calcio, non Brescia invece chiamiamo. Ciao, la settimana prossima.